si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Io e lui, perché è facile avere adesso avere fiducia in noi. Vediamo se noi abbiamo fiducia in voi. Comincerà lui. Qual è quel politico che farebbe una cosa così? Immaginatevi qui Gaspare. Ha urlato la rabbia. Allora voi dovete, quando dovete votare, non basarvi sulla vostra intelligenza, sulla vostra cultura o informazione. Dovete votare in base alla vostra rabbia. Eccoci qua, buonasera a tutti cari ascoltatori, buonasera da Alessio Maurizi, ben ritrovati con Si può fare, 18, 20 e 30, 800, 24, 00, 24, vi aspettiamo come sempre, come ogni sera per intervenire in diretta. Lo avete sentito Beppe Grillo, dovete votare con la rabbia. Resta tutto, di tutto quello che era Beppe Grillo, che era... il Movimento 5 Stelle all'inizio, ricordate le proposte innovative, l'economia sostenibile, l'economia green, il telelavoro, i pannelli fotovoltaici ovunque, la decrescita felice. È rimasta soltanto la rabbia alla fine di tutto. Alla fine di tutto questo resta la rabbia. Dovete votare con la rabbia, dice Beppe Grillo, che però parla durante il referendum coast to coast, cioè parla soprattutto del voto che riguarda il referendum costituzionale di ottobre. Seguiamo invece Alessandro Di Battista in questo ragionamento sulla rana. Prendete questa rana, la mettete nella pentola di acqua bollente. La rana si rende conto che la pentola sta, che l'acqua sta bollendo, che morirebbe bollita, dà un colpo di zampa e si salva la vita. Si è resa conto, ha avuto coscienza, ha avuto l'intelligenza, l'istinto di salvarsi. Stessa identica rana, mettetelo in una pentola di acqua fredda. Poi prendete questa pentola e la mettete sul fuoco e accendete il fuoco lento. L'acqua a poco si riscalda. All'inizio la rana sente anche un tepore, un piacere, come se avesse ricevuto 80 euro. Poi dopo inizia a sentire caldo, non sta più bene. Ecco, però noi siamo come la rana, dice Di Battista. Sentite la conclusione di questo ragionamento. È quello che ci sta succedendo negli ultimi 30 anni. Ci tolgono i diritti, però ci ritolgono lentamente, uno dopo l'altro, molto lentamente, perché se ce li togliessero tutti assieme, come quella rana, ci renderemmo conto del pericolo e magari daremmo un colpo di reni e ci salveremmo la vita. 800 24 00 24 è avvincente questo, questa metafora che Di Battista fa sulla rana. Siamo come la rana nell'acqua tiepida che viene scaldata piano piano, dice lui, ci tolgono i diritti poco alla volta e non ce ne accorgiamo. Una metafora avvincente, vi convince? 800 24 00 24. Ci deve essere sicuramente una certa dialettica all'interno della famiglia Padoan, perché avrete visto che la figlia del compassato ministro dell'economia è una ricercatrice, credo, della CGIL, ed era in prima linea a protestare giustamente contro il caporalato. Contro il caporalato in Puglia, non che i sindacati sempre e in tutte le situazioni siano stati con tutti e due gli occhi aperti su questa realtà, però insomma sentitela com'è scatenata la figlia del ministro Padoan. Se ci sono tanti disoccupati, la colpa è dei padroni e non degli immigrati. Questo palazzo non serve a un cazzo. Questo palazzo non serve a un cazzo. Cioè, immaginate le discussioni a casa Padoan la sera, se ammesso che la sera si ritrovino sotto lo stesso tetto a cenare. Il appunto compassato ministro Padoan, uno degli uomini più istituzionali del pianeta, credo, è stato in tutte le più grandi organizzazioni, Fondo Monetario, eccetera, eccetera. Adesso ha un ruolo super, super istituzionale. È uno che non riesce mai una parola fuori di posto. Con la figlia che appunto urlava: questo palazzo non serve a un cazzo. Avete sentito? Torniamo sulla politica nazionale. Alfano, il ministro Alfano, intanto a settembre si annuncia sicuramente un nuovo fronte di divisione all'interno del governo, ammesso che sia stato un fronte di divisione reale, quello sulle unioni civili, dove poi alla fine è prevalsa un voto compatto, la legalizzazione della cannabis. La opposizione alla legalizzazione della cannabis fa parte della nostra identità. Noi gli avevamo detto che non condividevamo ciò che lui affermava prima già da tempo. Perché? Perché se noi contribuiamo a fare la riforma del mercato del lavoro, la riforma della scuola, la riforma della formazione professionale, poi della pubblica amministrazione, manteniamo il paese in uno stato di sicurezza in un contesto del mondo in cui il rischio zero non esiste, noi vogliamo che questo lavoro venga giudicato nel suo insieme e che non si confonda una parte per il tutto. Vai male a scuola e credi di non essere all'altezza, ma in questo mondo che non ci consola soffriamo tutti di inadeguatezza e andiamo male a scuola, andiamo male a scuola. Vai male a scuola, ma fanno molto peggio i professori che hanno un concetto vecchio di cultura, perché non sanno leggere sui muri e ringhiano. Vai male a scuola, vai male a scuola. Allora, tra poco parleremo di scuola, perché c'è il concorsone per l'assunzione degli insegnanti, ma più di metà sono stati bocciati. Però prima voglio dirvi questo: sono 25 anni di internet, è un altro anniversario che si celebra il primo accesso pubblico al World Wide Web. E allora noi vi vogliamo chiedere il vostro rapporto con internet, con la rete, come è cambiata la vostra vita in questi 25 anni. Comincia a essere un tempo lungo, molti di voi sono nati che c'era già internet, io no. Per esempio, la vostra prima connessione, che siti avete aperto, motori di ricerca. Io per esempio ero all'università, mi ricordo la lentezza con cui si caricavano i siti di notizie. Già allora cercavo i siti di notizie. Oppure se vi siete andati subito a cercare un bel sito porno, subito, per togliervi la voglia subito, visto che poi questo è uno degli ambiti più visitati del web. Come si stava prima? Si stava meglio, si stava peggio? 800 24 00 24. Oppure che cosa buttereste via di internet, per esempio oggi, cosa non vorreste, qual è la vostra idiosincrasia rispetto alla rete? Non so, i selfie per esempio non si vedono più in rete, sui social, foto dei luoghi, si vedono solo foto dei nostri amici che conosciamo benissimo e che si ritraggono perché adesso è la moda del selfie. Io per esempio butterei via assolutissimamente le notifiche da tutti i social, da tutte le mail, eccetera, eccetera, che ti tengono attaccato inutilmente allo smartphone. 800 24 00 24, è con noi però Giovanni Vinciguerra, direttore responsabile di Tutto Scuola. Buonasera. Buonasera. Allora, lei cosa butterebbe via o cosa terrebbe di internet, Vinciguerra? Intanto. Per esempio, internet è uno strumento anche molto utile per la scuola, per l'apprendimento, sì, se ben utilizzato ovviamente. Però oggi i ragazzi, mentre fanno i compiti a scuola, tengono lo smartphone sotto il tavolo e controllano su Google. Questo non va bene, o sì? Questo ovviamente non va bene, ed è per questo motivo che spesso i docenti requisiscono gli smartphone. Su come si usa internet a scuola ci sarebbe da parlare, e ne parliamo tra poco. Il motivo per cui lei è con noi, Vinciguerra, è che voi avete fatto una radiografia di questo concorsone, perché più di metà insegnanti bocciati agli iscritti per diventare appunto insegnanti, e con domande però tipo anche la capitale della Svezia con risposta multipla, cioè c'era scritto, ci si davano delle possibilità, Madrid, Parigi, Bogotà, Stoccolma. Possibile che con domande così più di metà degli insegnanti candidati siano bocciati? Abbastanza incredibile, eh? Diciamo che ci sono moltissime classi di concorso e quindi le domande erano le più svariate e effettivamente noi abbiamo raccolto alcune diciamo indiscrezioni e sfoghi da parte di commissari di esame segnalavano in alcuni casi degli svarioni notevoli a proposito di internet, per esempio il segno, se vogliamo, più marcato dei tempi che tanti aspiranti docenti hanno utilizzato nelle risposte al concorso un linguaggio cifrato stile SMS. Cioè il PR al posto di PR, esatto, sì, CMQ invece di comunque, oppure KE invece di che. Ora questo se può andar bene nelle chat, che peraltro ormai sono frequentissime, certo, anche tra gli insegnanti e loro alunni, va benissimo. In un concorso pubblico bisogna sapere distinguere gli ambiti, insomma, no? Soprattutto se uno si candida a fare l'insegnante, quindi deve imparare a distinguere l'ambito, altrimenti anche vale tutto. Se no, proprio questi stessi docenti saliti in cattedra sono quelli che poi vanno a requisire gli smartphone agli alunni, quindi... E la cosa non regge, la cosa non reggerebbe. Ne parliamo di tutto questo tra un attimo, ci fermiamo per il traffico. 800 24 00 24, se siete insegnanti, se avete dei figli a scuola, se voi stessi a settembre tornerete a scuola. L'argomento è il concorsone, più di metà degli insegnanti bocciati. Cerchiamo di capire se è sbagliato il concorso o se questi aspiranti docenti sono un po' ignoranti, insomma, è possibile anche questo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Vai male a scuola e credi non essere all'altezza. Allora, Vinci Guerra, direttore di Tutto Scuola. Tutto Scuola è un mensile... un mensile, diciamo, di riferimento per molti insegnanti. Sì, da 40 anni. Ecco, voi vi siete presi la briga di analizzare un po' questo concorsone, avete sentito i commissari, i docenti, gli aspiranti docenti. Qual è la situazione che viene fuori? Insomma, io ho dato alcuni numeri, però forse li può dare meglio, perché qua stiamo parlando dell'inizio di tutto, cioè la buona scuola, quasi a un anno dall'approvazione, adesso poi dovranno arrivare i decreti attuativi, però la selezione dei futuri insegnanti è la cosa fondamentale, no? Sul principio che per salire in cattedra si debbano possedere dei requisiti stringenti, penso siamo tutti d'accordo, anche perché diciamo si tratta di scegliere chi dovrà formare le teste, come si suol dire, dei nostri figli. È il tasso di selezione che sta emergendo perché ad oggi non sono stati analizzati ancora tutte le prove scritte, anche perché il concorso è in notevole ritardo, ne sono state analizzate circa la metà e quello che sta emergendo è che circa il 55% dei docenti non sono stati ammessi all'orale. Noi abbiamo fatto anche una proiezione sui restanti concorsi, che sono anche in alcuni casi quelli molto numerosi per i maestri, diciamo, della scuola primaria, e abbiamo stimato che alla fine ci potrebbe essere un tasso di bocciatura addirittura del 66%, quindi 2 su 3. Accidenti. E poi in ritardo. Perché in ritardo? Com'è possibile anche qua? Stiamo parlando di una cosa importante, appunto la selezione dei futuri insegnanti, e siamo in ritardo. Ma qui le motivazioni sono molteplici, diciamo che c'è stato un ritardo iniziale nel definire queste classi di concorso, quindi al quale diciamo il ritardo ha contribuito anche questo il Parlamento. Questo è merito del Parlamento e del Governo, immagino. Anche. Beh, diciamo, è stato, devo dire, molto, molto complesso. La legge prevedeva che il concorso fosse bandito entro dicembre del 2015 e invece è stato bandito a febbraio, quindi è partito in ritardo. Poi c'è stato il problema dei commissari del concorso che non si trovavano, anche perché come... Sì, anche questo è importante, Vinci Guerra, no? I commissari, cioè quelli che devono esaminare i testi, i compiti fatti dagli aspiranti docenti, è un ruolo cruciale, importante. Sì, infatti, chi sono questi commissari? Come vengono selezionati? Ma sono, diciamo, i presidenti di commissione, sono in genere dirigenti scolastici, quindi presidi, o professori con particolare esperienza. Gli altri membri tipicamente sono docenti, insegnanti che hanno sì. un certo numero di anni di insegnamento. Ma è venuto fuori anche, mi pare di aver letto da qualche parte, che tra questi commissari addirittura era stata selezionata una insegnante che però non aveva ancora passato il concorso per entrare in ruolo. Le spiego cosa è successo. Fare il commissario non ci voleva andare nessuno, anche perché, come abbiamo calcolato noi, sì. veniva dato un compenso che, diciamo, in alcuni casi addirittura di un euro l'ora. Un euro l'ora? Di un euro l'ora, perché diciamo, viene richiesto un grosso, diciamo, un lavoro notevole, in alcuni casi anche abbiamo calcolato circa 500 ore di lavoro e il compenso più o meno era di 500 euro. Quindi mi spieghi un attimo come funziona, cioè il commissario sta a casa sua, gli vengono mandati per posta in un plico chiuso i compiti e così, e lui li corregge, qualcosa del genere? Beh, non credo per posta, però diciamo gli vengono consegnati. Poi si reca in un ufficio della sovrintendenza. Fuori dell'orario di lavoro, perché sì. diciamo non è stata prevista una dispensa, diciamo, dal lavoro ordinario. Fuori dall'orario di lavoro, magari anche appunto in questi mesi estivi, viene richiesto questo tipo di lavoro. 500 euro per correggere 500 compiti. Dopo la nostra inchiesta, il governo molto tempestivamente, addirittura è stato proprio il premier Renzi che il giorno dopo ha detto che questo problema andava risolto, ed effettivamente diciamo è stata diciamo stanziata una somma di 8 milioni di euro in più per retribuire però Vinci Guerra sarà d'accordo con me, è triste questa cosa, sarà d'accordo con me, Vinci Guerra, è un po' triste che ci si arrivi dopo a rendersi conto che stiamo pagando un euro l'ora quelli che devono selezionare. Diciamo che poi è stato in qualche modo posto riparo, però rimedio però tardivamente. Speriamo che dal prossimo concorso magari si parta subito con un compenso più degno. E dando un'occhiata invece a quelle che erano le domande e quelle che sono state anche le risposte, so che voi avete fatto anche una specie di sondaggio chiamando alcuni aspiranti docenti, anche i commissari, credo. Che idea si è fatto? Cioè, come mai questo elevatissimo tasso di bocciatura, che tra l'altro non è più alto al sud, ma in questo caso è più alto al nord? Sì. Perché spesso ci immaginiamo che il sud sia più arretrato, eccetera, eccetera, luoghi comuni di questo genere. Stavolta non è così. Non è così. Io, diciamo, tenderei a escludere il fatto che in generale chi aspira a fare il docente non sia preparato, perché questo sarebbe veramente un'ingiustizia dire questo. C'è da dire che la selezione è, diciamo, abbastanza rigorosa e, come dicevamo prima, se vogliamo è anche giusto che sia così. Certamente ci sono evidentemente tante persone che si sono così iscritte, diciamo candidate a partecipare a questo concorso, le quali probabilmente non avevano una preparazione adeguata. Le faccio un esempio. Cioè, va anche tentando così un po' la sorte. Ma guardi, per esempio, poteva partecipare. Allora, era richiesta l'abilitazione all'insegnamento per fare il concorso, ma si è consentito di farlo per una legge anche a i diplomati magistrali che si sono diplomati prima del 2002. Quindi stiamo parlando di persone. Cioè, di uno che ha preso il diploma 15 anni il fa. Diploma magistrale 15 anni fa, adesso gli si è detto: se vuoi puoi partecipare a questo concorso, probabilmente 30-40 mila persone, quindi una percentuale rilevante delle 175 mila totali, sono questi diplomati magistrali che in molti casi hanno fatto altro in questi 15 anni. Però diciamo che Vinci Guerra, potrebbe anche essere una buona notizia da un certo punto di vista il fatto che ci sono molti bocciati a questo concorso per aspiranti docenti, perché vuol dire che c'è molta selezione, quindi diciamo, resteranno in piedi solo i migliori. Il problema poi sarà che voi avete stimato fino a 20.000 posti vacanti, perché non ce ne saranno abbastanza. Non sarà che ormai anche le condizioni forse di lavoro di questo mestiere, che un tempo era una professione, un mestiere, forse una scelta di vita, oggi non è più così, stipendi bassi, non lo so. Sono d'accordo, secondo me lei ha toccato il cuore del problema, cioè questo, diciamo, l'esito molto selettivo del concorso può essere interpretato a nostro avviso anche come un indizio che la professione dell'insegnante, come è stata concepita e diciamo gestita in questi anni, per il cui accesso, diciamo, sono necessari 10-15 anni, è inevitabilmente diventata non più una prima scelta da parte dei migliori studenti, ma una seconda, una terza scelta. Io, Vinci Guerra, mi scusi, la correggerei solo, se mi permette, dicendo che più che un indizio si tratta di una conferma a questo punto, perché di indizi ne abbiamo avuti parecchi. E direi che finché non tornerà ad essere una prima scelta, mancherà il presupposto principale perché si possa avere una buona scuola, cioè un livello qualitativo della scuola elevato, perché poi e per arrivarci, come fare perché torni ad essere una prima scelta? Va ridisegnato il profilo della professione docente, vanno ridisegnate le condizioni di lavoro, perché spesso non sono le più agevoli, va ridisegnato il profilo economico, mi sembra che questo sia un punto fondamentale, perché se siamo in un'economia di mercato, per attirare i migliori talenti li devo inevitabilmente pagare. Facciamo l'esempio di un laureato guadagna, in pieni voti. Quanto guadagna un insegnante, che ne so, di scuola media al primo incarico oggi? Sulle 1.200-1.300 euro. Quindi non è molto, spesso un primo della classe punta sicuramente a entrare in qualche azienda a guadagnare. Ma lei che farebbe fosse un laureato in pieni voti in matematica, tra una multinazionale che ti offre un percorso di carriera con uno stipendio iniziale già comunque più alto, un percorso di carriera per cui puoi andare a guadagnare 5 volte tanto nel giro di pochi anni, e la scuola ti danno 1.300 euro, dove oggi con scatti di anziani per cui tra 30 anni guadagnerai 300 euro in più, allora scelgono quell'altro canale. Allora dobbiamo invece rendere attraente la professione di insegnante, e abbiamo tantissimi bravi insegnanti che in quel caso, e anche tante altre persone che diciamo sceglierebbero, avendo le qualità e i talenti, questa professione. Va bene, grazie, ci fermiamo qua. Vinci Guerra, grazie, buona serata. Altrettanto, buonasera. Grazie per essere stato con noi. Tra poco la borsa, 800 24 00 24. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Per cosa viene utilizzata, non per uso ricreativo ma per uso medico. Oh, per farsi una canna no? Dipende, cioè per farsi una canna e non lo so, cioè dipende dal contesto in cui viene messa. Il contesto in cui ci si fa la canna? Esatto, cioè se si fa per uno scopo giusto o se la si fa solo per fare, non lo so, la scena. Che rimanga sempre un uso ma che non diventi un abuso, che venga comunque regolato. Qual è il numero di canne giornaliere perché non diventi un abuso? Dipende. Due? Non più di due. Le voci dei ragazzi di Comunione e Liberazione sul tema della cannabis, chissà se non rispondono per reticenza oppure perché non ne sanno nulla, magari non hanno mai fumato una canna, però la canna per lo scopo giusto mi mancava, la canna per lo scopo giusto è ammessa. Vabbè, insomma, possibilisti ragazzi di Comunione e Liberazione sulla legalizzazione della cannabis, che è un tema sicuramente di maggioranza, io credo, almeno nel paese, se si fanno dei sondaggi, credo che la maggior parte delle persone siano d'accordo su questo tema, e secondo me è anche per questo che questa proposta di legge può far strada, e staremo a vedere. Davide da Verona, buonasera. Buonasera. Avevo sentito prima che stava parlando di Beppe Grillo. Sì. Ecco, benissimo. A me è tornato in mente quel piccolo episodio in cui si è trovato quel faccia a faccia Renzi e Grillo, in cui Grillo ha detto non sei credibile. Mi tocca dare ragione a Grillo. Ma quello in cui Renzi disse a Grillo esci da questo blog? Bravissimo, bravissimo. Sì. Bravissimo. Erano le consultazioni in diretta streaming, esatto, informazione al governo. Esatto, ho detto nada. E adesso ho pensato, ho riflettuto, ma come adesso... Renzi si è giocato tutto su questa benedetta riforma costituzionale, ha detto addirittura, mi ricordo, lascio la politica, dove si parla lascio sì. politica. Adesso è stato qualche mese, probabilmente avrà visto qualche sondaggio, niente, si va a votare al 18. È la nota coerenza dei politici, questo. Ma infatti io da Berlusconi a Renzi vedo proprio un susseguirsi logico. Io ormai ho 50 anni, insomma, mi ricordo qualche politico di vecchio corso. Avevo anche la parola, mi ricordo Spadolini, un Andreotti, cioè, avevano una parola comunque. Non so se il progresso cosa sta portando. Cioè, proprio l'uomo, la parola dell'uomo, della persona non vale assolutamente nulla. Fa un po' riflettere. Va bene. Va bene, grazie Davide, buona serata. 800 24 00 24, ci chiama Roberto dalla provincia di Venezia. Venezia, tra l'altro, Roberto, se vuoi intervenire anche su questo, alle prese con il degrado, con le foto postate di qua e di là di turisti che si abbassano i pantaloni e fanno pipì in piazza San Marco, eccetera, eccetera. Roberto. Quello è un tema che vorrei affrontare come subordinato eventualmente. Chiamavo per la questione della scuola e la scelta delle persone che sono destinate ad insegnare. Io mi sono laureato e poi mi sono mantenuto durante la laurea facendo ripetizioni, quindi ho un'esperienza indiretta di insegnamento. E sono andato a coprire quelle che erano le lacune dell'insegnamento della scuola, cioè andavo a insegnare ai ragazzi quello che la scuola non gli aveva dato, e ho fatto i conti con molti studenti, diciamo, zucconi o svogliati, ma anche con molti studenti che non sono stati in grado con gli insegnamenti che hanno ricevuto, di capire quello che gli veniva insegnato. E questo per una carenza più del professore che dello studente. Beh, senz'altro. Se lo studente non impara, è colpa dell'insegnante. Anche se l'impresa può essere ardua in alcuni casi, perché se hai di fronte 27-28 alunni e hai due ore di matematica alla settimana, probabilmente, magari in contesti difficili, non ce la fai a insegnare chissà che, però poi alla fine è chiaro che la colpa è dell'insegnante o della scuola. Ecco, allora queste selezioni che vengono fatte in modo che si verifichi intanto che l'insegnante sappia quello che deve insegnare, perché se deve insegnare matematica, anche se sbaglia la capitale della Svezia, cosa importa? Credo però che quelle domande fossero proprio per gli insegnanti che hanno a che fare con la cultura generale, non lo so, questo non lo so. Comunque, fissato questo, diciamo, se non è in grado, se deve insegnare matematica... Veniamo a sintesi del suo intervento. Se non è in grado di trasmettere la materia, oltre a saperla, sta facendo un lavoro sbagliato. Cioè, io, per esempio, a livello universitario ho trovato che c'erano dei gran professori che erano delle menti eccelse, ma di didattica... Va bene, non sapevano trasmettere la passione per la materia. Questo è un vecchio problema. Qua però, in questi scritti, credo che poi all'orale si valuterà anche questo aspetto, agli scritti si valuta la conoscenza di base, no? Di questo stiamo parlando al momento. La notizia da cui siamo partiti è che c'è oltre un 50% di bocciature agli iscritti, agli aspiranti insegnanti. Linda, buonasera da Brescia. Buonasera, io sono un'insegnante in attesa di giudizio, se possiamo dire così. Insegno giusto matematica e scienze alle medie, e a parte il discorso passione... Sì, un attimo Linda, le posso chiedere, in attesa di giudizio cosa intende? Intendo che ho fatto lo scritto, ho fatto la prova pratica, perché in alcune materie c'è anche una prova pratica. E non sa ancora l'esito di questa? Assolutamente no, perché ovviamente anche questo è una delle cose da da rimarcare che le comunicazioni ufficiali non sono mai tempestive. Vabbè, ma questo è un altro discorso. È tutto in ritardo, tutto l'abbiamo detto, il concorso appunto. È arrivato tutto. Come ha trovato, scusi Linda, come ha trovato le domande del concorso? Se voi guardate la mia materia, ma mi posso assicurare altre materie, non erano assolutamente domande semplici, domande chiuse tipo la capitale del... Mi sarei sentito offesa da certe domande. Lei non aveva la domanda sulla capitale della Svezia, ma sto scherzando, avevo domande in cui mi chiedevano di strutturare dei percorsi didattici in 18 minuti, cosa che sinceramente per rispetto dei miei alunni non farei mai. 18 minuti un percorso didattico, stiamo scherzando? Io devo avere non solo la conoscenza, sapere dove andare a parare, ma anche avere il tempo di organizzare le cose con coscienza, perché altrimenti, scusi, 18 ore in classe e poi a casa non lavoro. E non è così. Almeno per chi come me, ripeto, ci mette la voglia, l'impegno e veramente... Io non posso dire non sono nata insegnante, non era forse la mia prima scelta, ma lo è. E posso dirle che moltissimi dei miei colleghi che hanno fatto l'abilitazione 2 anni fa con me, nella mia materia che non è facile, ce l'hanno questa scintilla. Solo che probabilmente non serviamo, siamo troppo vecchi. Perché lei quanti anni ha, Linda? Scusi, quanti anni? 40 anni. E ma perché dice prima, che è troppo vecchia, scusi? Che la prima opportunità che mi hanno dato per inserirmi nel mondo della scuola è stata 2 anni fa. Con vabbè, la promessa c'è arrivata di un po' tardi, sì. Sistemare, ma non per me, sono stati 10 anni in cui non c'era niente. E quello è il problema. E poi, sinceramente, ci sono top posti, d'accordo. Io lavoro a Brescia. Sono nata, cresciuta, conosco la situazione della mia città. Ce ne sono altro che così di posti nella mia materia. Decidiamo di fare le cose razionalmente. Matematica e scienza è una materia problematica. Cosa vuol dire razionalmente? Scusi. Questo, italiano, lettere, tanto per intenderci, è una materia in cui purtroppo ci sono tanti aspiranti, ma tanti aspiranti che aspettano cattedre da anni e hanno vinto concorsi. E invece? Nella mia materia le graduatorie, famoso esaurimento, sono esaurite da anni. Qua a Brescia, in tutta la Lombardia... Facciamo le cose razionalmente. E poi, ultima cosa, le università le hanno detto. 2 anni fa mi avete abilitato come università, adesso il MIUR viene a dire, spero di no per me, ma per qualcuno dei miei colleghi lo sarà, forse per me. Vabbè, Linda, la fermo qua perché poi sulle questioni dei concorsi, sulle questioni burocratiche, sull'iter di ognuno di voi insegnanti, ci sono storie che però sono molto particolari, quindi magari non interessano a tutti. Comunque, in bocca al lupo per il concorso, anche a te. Andiamo a Venezia, l'abbiamo detto. Turisti che si tuffano dai ponti, pedalano con biciclette che non passano con motorini sulle antiche pietre della città. Piazze trasformate in latrine e cittadini di Venezia che appendono cartelli turisti andatevene perché non ne possono più. Una cosa che torna ogni estate. Ecco noi il presidente della Regione Veneto. Buonasera Luca Zaia. Buonasera a tutti, grazie per l'ospitalità. Zaia che ha proposto il DASPO per i turisti. Adesso il DASPO va di moda, Zaia, perché ogni situazione si mutua questa cosa che viene fatta per gli stadi, anche per altre situazioni. Però insomma l'idea è questa, come dovrebbe funzionare? Diciamo che i turisti non sono tutti maleducati, la stragrande maggioranza ha il massimo rispetto per quello che è il patrimonio dell'umanità, che è Venezia. Certo, questo sì. C'è da dire sì. Che però se qualcuno si comporta male e dopo essere punito è giusto che a Venezia non ci mette i piedi. Cioè chi fa la pipì sui monumenti storici che vedono secoli di storia è come la facesse all'interno di un museo. No? Se la facesse all'interno di un museo ci sarebbe... l'apriticielo con la gogna pubblica, siccome magari questa pipì viene fatta da Venezia, magari lungo una calle e viene anche vissuta nei social magari come un atto di eroismo da parte di qualche disgraziato. La verità è che fanno la pipì in un museo a cielo aperto e così non si fa. Sì, tra l'altro ci si mettono anche i social a rendere pubbliche delle situazioni che magari, ora non voglio dire in passato, ci potevano pure essere, però non se ne accorgeva nessuno. Ma insomma, il problema è che queste cose giustamente non si possono tollerare. Cioè, se uno fa, adesso dico un paradosso, se uno facesse la pipì su un muro di una città qualunque, può essere un peccato, diciamo, perdonabile, però lei dice Venezia no, perché è un museo sostanzialmente. Ma in generale la pipì non la si fa sui muri, la si fa nei luoghi, usiamo un termine un po' forbito, deputati a far queste cose. Però ecco, questa è una cosa importante, Zaia, perché io un po' che non vengo a Venezia, ma ci sono bagni pubblici all'esclusione dei bar che magari a una certa ora di notte possono essere chiusi, possono essere magari molto cari. Ma guardi, a Piazzale Roma ci sono i bagni pubblici e comunque devo anche dire che molte immagini che sono state riportate dai social non sono esclusivamente a notte fonda. E dopo comunque, mi perdoni, questo non è un alibi, non è che uno imbratta e lorda una città perché comunque si trova a un'ora nella quale, anche perché diciamola fino in fondo, Venezia non è che sia una metropoli così grandissima da girare, facilmente. Sì, no, ma io volevo semplicemente dire che bisogna anche organizzarla bene l'accoglienza di questi milioni di turisti che ogni volta vengono a Venezia, perché questo, diciamocelo, è un tema ricorrente, quello del degrado della città, del fatto che ci sono troppi turisti. Ogni anno si cercano soluzioni, però poi mi consenta il facile populismo, voi politici, presidente di regione, sindaci, oggi Brugnaro fa un'intervista sul Libero chiamando in causa il governo, vuole più poteri di polizia eccetera eccetera, però sembra che non riusciate mai a risolverlo questo problema. Come mai il cittadino si chiede? Guardi, questo non deve essere un alibi per i cittadini, perché la buona educazione prescinde da tutto. E io vado a proporre da un bel po', fermo restando che mi occupo della città in particolare, che sarebbe bene, visto che le nuove tecnologie ci aiutano, che come prenotiamo la poltrona al cinema o allo stadio via internet, lo si possa fare anche nella visita della città. Il che non vuol dire che dobbiamo riservare la città solo ai sceicchi, ai miliardari russi, a chiunque riesce a prenotare la visita. Abbiamo giornate come queste che sono in overbooking con oltre 150.000 visitatori. Tutto ciò premesso, non c'è nessun alibi per chi comunque si comporta male. Non vorrei che, come al solito all'italiana, ci sia sempre la scusante. Cioè, uno si comporta male, cioè non è che perché il muro di una città ha un graffito fatto con lo spray da qualcuno, tutti sono legittimati a lordare la città. La teoria del vetro rotto, no? E ricordiamo la teoria, un'auto abbandonata con un vetro rotto nel Bronx venne distrutta, un'auto abbandonata non con il vetro rotto non venne distrutta in centro a New York, quando decisero di rompere un vetro per vedere cosa sarebbe accaduto, anche quell'auto, nonostante non fosse nel Bronx, fu distrutta. Sì. Il che vuol dire che bisogna anche essere rigorosi. Sì, no, è vero, questo sicuramente sì, ed è quello che dice lei e che dice anche il sindaco di Venezia, Brugnaro, che però è in carica già da un po'. E la situazione è questa, però vede che ho toccato un tasto, perché un ascoltatore, Sergio da Mestre, ci scrive: bagni pubblici a Venezia ce ne sono pochissimi, se vai in un bar non ti fanno usare il bagno, se non consumi seduto minimo 5 euro. Ora io non so, non sarà questa l'esperienza di tutti, però forse è anche questo un punto. Ci fermiamo. Ma guardi, però, può essere, mi perdoni, può essere un punto. Io giro come tutti i cittadini per le città. Cioè, il bagno pubblico è sempre stato rappresentato da tutti noi, dalla possibilità di entrare in un bar e bere un bicchiere d'acqua, male che vada. Che adesso non mi si dica che nelle città abbiamo bagni pubblici dappertutto nel momento in cui c'è la necessità di fare la pipì, perché questa sarebbe un'idiotia sostenere questo. No, però che Venezia sia un caso particolare dove ci sono tantissime persone e dove forse c'è, può essere che ci sia bisogno di qualche bagno pubblico in più per evitare che qualcuno la faccia fuori. Ripeto, questo è solo un esempio di un discorso che io faccio a lei in quanto esponente politico che fa una proposta, però insomma, il turismo va organizzato, questo sì. Cioè, io dico la verità, leggere oggi l'intervista di Brugnaro che si lamenta per quello che succede a Venezia, giustamente, però il sì sindaco è lui e chiama in causa il governo chiamerà in causa qualcun altro e stiamo sempre a girarci le responsabilità, però poi non sembra che questo fenomeno sia ineluttabile, cioè da qualche parte bisognerà iniziare, non so se costruendo più bagni pubblici, ma lei dice, propone il DASPO tra l'altro, adesso ci spiegherà meglio in cosa consiste questa proposta, come fare ad applicarla anche e quali comportamenti dovrebbero rientrare in questa ipotesi del DASPO e soprattutto come si fa poi a controllare il turista che torna a Venezia eventualmente che non ne avrebbe più il diritto, perché Zaia non c'è la frontiera, poi come si fa a controllarlo il turista? Lì c'è la frontiera, però comunque uno sa che se ha si è comportato male, si è comportato con maleducazione, sa che se viene ripizzicato ci vorrebbe una legge, ripeto, che ci permetta di fare come accade negli stadi e tu non entri più nella città. Cioè, poi sa, mi perdoni, vorrei anche ricordare che se da un lato lei ha richiamato più volte la parola politica e politici, io richiamo quella giornalisti e così ci scambiamo le responsabilità, va no, benissimo. Ma non è che ci scambiamo le accuse, mi perdoni. Sì. Se qualcuno continua a dire che per entrare in un bar bisogna pagare 8 euro un caffè, che è esattamente il prezzo magari che si può pagare con tanto di orchestrina in piazza San Marco, omette di dire che in tutta la città si può pagare il caffè come lo si paga nelle altre città. Sì. Io non bevo caffè, ma immagino che quanto costa un caffè oggi. No, un euro a Venezia non esclusa piazza San Marco, credo che non costi più che in altre città. Ma costa come in tutte le altre città, per cui anche qui varrebbe la pena di dire che nei bar si può entrare e c'è un servizio come accade in tutte le città. 800 24 00 24, traffico, torniamo tra un attimo con Luca Zaia. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Senta Zaia, come giudica però il lavoro che sta facendo Brugnaro, il sindaco di Venezia, su questo tema del degrado e anche magari su altre questioni? Perché, ripeto, oggi c'è un'intervista sul Libero nella quale lui chiama anche in ballo il governo, dice abbiamo chiesto più poteri di polizia e insomma in merito alla sicurezza, però non ce li danno, dice. Ma guardi, io penso che il sindaco Brugnaro stia facendo un bel lavoro, considerate che è lì da un anno. C'è anche da dire che noi cittadini poi abbiamo mitizzato queste figure del sindaco sceriffo, penso so a Rudolf Giuliani, no? Quando Giuliani ripulì New York dai delinquenti, però i poteri che hanno quei sindaci americani non ce li hanno i nostri poveri sindaci, non ce li abbiamo noi nel territorio. Il cittadino vorrebbe che il sindaco fosse veramente operativo e avesse addirittura la possibilità di fare la vera e propria pulizia nei territori. Poi è che viviamo in un paese nel quale il testo unico di pubblica sicurezza dà tutti questi poteri alle forze di polizia ed esenta ovviamente i sindaci di poter esercitare questi poteri, perché poi questa è la verità. Quando Brugnaro dice vorrei poteri speciali, non dice una cretinata. Però va bene, i poteri speciali, lui dice noi potremmo essere Venezia un laboratorio di un decreto che dà questi poteri proprio a una città che ne ha particolarmente bisogno, ma le ordinanze, un sindaco non può emettere qualche ordinanza in più, ha detto adesso faremo un piano per assumere nuovi più vigili urbani, anche questa è una cosa che si può fare, no? Sì, premesso che i tagli non permettono ai comuni di fare tutte queste assunzioni. Questo è un dato di fatto, guardi, la mia regione è passata da un bilancio con una cifra disponibile di mezzo miliardo nel 2010 e ho fatto il bilancio 2016 con 52 milioni di euro, le dà una dimensione di cosa è accaduto in 5 anni nei bilanci degli enti. Soldi non ce ne sono. Ma non sono qui per portarla come giustificazione, dico semplicemente che al di là delle ordinanze che tu puoi dire non imbrattate i muri, non fate questo, ma poi il problema sono le pene, sono le soluzioni che tu non ti puoi inventare, perché comunque c'è un codice penale e c'è tutto il tema dell'ordine pubblico che è esclusività, lo dice il testo unico di pubblica sicurezza, delle forze di polizia, del Ministero degli Interni, delle forze di polizia che sono coordinate. Ci vorrebbe il coraggio di dare più potere ai sindaci, ma darlo per legge. E vabbè, staremo a vedere se poi questi poteri arriveranno come chiede Brugnaro oppure no. Intanto appunto c'è questa sua proposta, il DASPO per i turisti. Voglio ancora fare un paio di domande magari su un altro paio di argomenti, tema immigrati e anche questa questione dei lavori socialmente utili, perché il segretario del suo partito Salvini ha definito Alfano schiavista, perché il Ministero dell'Interno ha proposto questo, che tra l'altro è già una legge che prevede i lavori socialmente utili per italiani o stranieri che ricevono dei sussidi, ma insomma la destra dice toglie lavoro ai disoccupati italiani. Lei cosa ne pensa? Come dovrebbe affrontare magari una piccola comunità? Noi tra poco sentiremo San Casciano in provincia di Firenze, dove lo fanno, con credo anche benefici insomma per queste piccole comunità. Lei che ne pensa? Guardi, se fossimo a disoccupazione zero, cosa che oggi non c'è in Italia, nella mia regione, le parlo da governatore, abbiamo 175.000 veneti e oriundi veneti e non veneti che comunque cercano un lavoro, di persone che sono stabilmente integrate in Veneto. Io penso che la priorità sia quella di fare in modo che questi signori possano lavorare, cioè coloro che sono disoccupati. Se in un mercato del lavoro che ormai è asfittico ci mettiamo anche con la scusa dei lavori socialmente utili o di inventarsi di dare un minimo di stipendio anche a chi arriva da altri paesi, finisce che la scala delle priorità è un'altra. Allora noi Però, diciamo, prima i veneti, non perché siamo razzisti, perché è un dato di fatto che se uno ha un'abitazione, ha i figli da mandare a scuola, mi perdoni, sì. Prima viene, dobbiamo cercare di dare un lavoro a chi è qui stabilmente in Veneto e dopo a chi viene dal resto del mondo. Questa è una logica, penso che sia anche costituzionale. Però non sono pagati in questo caso, non sono pagati, cioè è una cosa che si fa su base volontaria e il migrante che riceve l'accoglienza, il sussidio, in questo caso già di per sé, perché è un richiedente asilo, fa un lavoro gratis, non è che viene pagato. Guardi, i casi sono due. Innanzitutto si è parlato anche di dare un minimo di come si può dire, di retribuzione simbolica. Questo vorrebbe dire che comunque è un lavoro pagato. Nel caso non fossero pagati, vorrei anche ricordare che socialmente utile, se andare a tagliare l'erba, a tutti noi piacerebbe dire, no, sei qua, ti manteniamo, almeno taglia, che so, l'erba nei parchi comunali. È questo, no? Non è una cosa tanto irreale, insomma, non mi sembra. No, però mi lasci finire il ragionamento. Certo. Però è altrettanto vero che se non lo facesse qualcuno gratis, lo dovrebbe fare qualcuno a pagamento. Quindi vuol dire che alla fine anche lì se ne va un posto di lavoro. Allora, se c'è da fare qualche lavoretto, io preferirei che lo facessero fare, sì, magari con uno stipendio simbolico ai nostri ragazzi che cercano qualcosa da fare. Però l'ha detto anche lei prima, Zaia, i soldi comuni non ce li hanno e quindi questo lavoro in più non ci sarebbe comunque. Questo è anche abbastanza chiaro, secondo me, o no? Guardi, la verità è che noi abbiamo due posizioni diverse. Lei pensa che sia giusto, io no. Poi può darsi, però siccome Zaia è una persona con cui si ragiona e mi interessava sapere il suo punto di vista su questo. Un'altra cosa, in vista della convention di centrodestra organizzata a Parigi, lei ci andrà o andrà a Pontida? Ma guardi, quando è organizzata questa convention di centrodestra? Se non lo sapete voi che siete... ma non glielo chiedo provocatoriamente, cioè non è che sono lì appeso... Per la metà di settembre, credo, però mi pare che Maroni, il suo collega della Lombardia, abbia risolto dicendo io vado a Pontida e quindi non posso andare. Guardi, fra l'altro se corrisponde con le date di Pontida, maggior ragione. Non c'è discussione. Un appuntamento storico. Poi le aggiungerò anche una cosa, sì. Io mi occupo della regione del Veneto, per cui mi viene sempre un po' l'orticaria per fare queste robe di politica, di grandi ragionamenti, perché poi sa, uno che vive come me on the road tutto il giorno davanti ai problemi, sì, che sa che ha 80 milioni di prestazioni sanitarie all'anno da erogare a 5 milioni di veneti, che bisogna far quadrare il bilancio e bisogna essere anche molto performanti nell'amministrare, e dirò che ho il cervello impegnato su questo fronte. Va bene, però Parigi fa un altro lavoro. Parigi sta cercando di dare un'organizzazione al centrodestra su un mandato di Berlusconi. Le piace Parigi? Ma guarda, io non lo conosco minimamente, non l'ho mai incontrato in vita mia. Io sono un amante dei cavalli. Se mi chiedesse se mi piace un cavallo perché l'ho visto in foto, le direi un'idiozia, non lo faccio tanto meno una persona. Quindi, ma da come si sta muovendo questi primi, l'idea di fare questa... Come si sta muovendo? Cioè non lo conosco minimamente, cioè, bisognerebbe valutarlo sul campo, però cioè non è fuori da ogni logica per quello che sto seguendo io, cioè, non è la fonte di tutte le mie preoccupazioni, di tutti i miei pensieri in questo momento. Però Salvini ha candidato lei, se non ho visto male, come leader, come candidato. Guardi, io ringrazio per la fiducia che mi dà Salvini e tutti i militanti, ma io c'ho altro da fare che quello di seguire la mia regione. Ho lasciato il ministero per seguire la mia. Però poi prima o poi finirà l'incarico, no? Sì, ma non sono mai stato uno che programmava le poltrone a seguire, sono sempre stato un fatalista e penso che se uno è fatalista e vive anche del suo riesce a lavorare bene. Se pensa sempre alla poltrona successiva finisce che fa danno. Grazie Zaia, buona serata, grazie. Grazie a voi e buon lavoro. Grazie mille, 800 24 00 24, vi aspettiamo dopo il giornale radio. A volte basta accendere la radio per ritrovarsi comodamente seduti al cinema. Arrivarono con il vento di carnevale Vian e sua figlia Anouk, che a 6 anni il mondo aveva ancora una luce speciale. Audiogrammi Reloaded, una storia come non l'avete mai ascoltata, di Paolo Corleoni e Laura Faggin. Sabato alle 15 e domenica alle 23 su Radio 24 e in podcast su radio24.it. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora voi dovete, quando dovete votare, non basarvi sulla vostra intelligenza, sulla vostra cultura o informazione. Dovete votare in base alla vostra rabbia. Chi sono io? Non lo so, penso, urlo dei pensieri, non so se queste idee vi arrivino, ma non è questo il mio intento. Sei la speranza! Non sono la speranza, non devi più sperare! La speranza è il delirio al suo stato normale! Gli altri devono sperare! Ti toglierci dai coglioni! Il delirio ormai è quello che sta attanagliando, credo di poterlo dire tranquillamente, anzi in amicizia, Beppe Grillo. Come si fa a invitare la gente a votare senza usare l'intelligenza, la cultura, quello che si sa? Ma come? Si dice bisogna informarsi per sapere le cose, ed sono i cavalli di battaglia del Movimento 5 Stelle, prima maniera, quando aveva delle proposte, delle tematiche ambientali, sociali. C'è sempre stata ovviamente la rabbia contro i politici, adesso è sparito tutto, rimane solo la rabbia. Parliamo naturalmente del referendum costituzionale, ma tant'è. Allora, un sms di un ascoltatore al 349-238-6666. Abbiamo parlato di Venezia, del fatto del degrado, del fatto che ci sono turisti che fanno la pipì dappertutto. Luca Zaia, presidente della regione, il sindaco di Venezia, Brugnaro, chiedono al governo maggiori poteri. Zaia propone il DASPO per i turisti, però poi c'è la questione che a Venezia non ci sono tanti bagni pubblici. Ci sono all'inizio Piazzale Roma, quando arrivi poi entri in città e devi andare in un bar. Ora, io è un po' che non vado a Venezia, non ho ricordi particolari su questo, però mi attengo a quello che dicono gli ascoltatori. Ci scrive un ascoltatore, Mauro, che dice: la mia esperienza in Cina, da 20 anni di frequentazioni, ci sono bagni pubblici ogni 300 metri. Allora facciamoci dare lezioni di bagni pubblici anche dalla Cina. No, vabbè, adesso banalizzo, però forse, Brugnaro, se metti qualche bagno pubblico in più in giro per Venezia, può essere che qualcuno pisci un po' di meno in giro per strada. Non lo so, è una proposta minima. Sicuramente sono anche altri i problemi. Abbiamo sentito Zaia che ha risperito al mittente la proposta di Parisi, la convention di centrodestra a settembre, sapete, alla quale sta lavorando, sull'indicazione di Berlusconi. Dice lui e Maroni, tutta la Lega, andremo a Pontida, e di Parisi non ce ne frega un bel niente. Sentiamo Alfano cosa ne pensa invece. Per ora Parisi sta facendo un lavoro sostanzialmente collaterale a Forza Italia, vediamo come andrà, ma nel frattempo noi siamo coloro i quali, sia dentro il governo che con la scelta referendaria, rappresentano quel centrodestra e quei moderati popolari e liberali che danno cittadinanza ad idee che spesso non trovano accoglienza in Salvini e negli estremisti di destra. Allora, sviluppi del caso del presunto tentato rapimento su una spiaggia di Ragusa ad opera dell'indiano di 43 anni che adesso, io premetto, ho fiducia nell'Italia, nel nostro paese, nel sistema italiano e anche nella giustizia, e quindi se lo hanno lasciato libero penso che non ci fossero a suo carico cose che giustificassero una detenzione, un arresto, un processo magari per direttissima. Però sentite il cortocircuito nel quale ci andiamo a ficcare. Stasera, l'avete sentito anche dal giornale radio, lui sarà trasferito in un CIE, in un centro di identificazione di Caltanissetta. Dopo che cosa? Dopo aver ricevuto un decreto di espulsione nelle circostanze del suo primo fermo da parte della polizia, che non lo ha potuto tenere a arrestare, ma gli ha emesso un decreto di espulsione che lui non ha eseguito volontariamente, cioè ha detto io non me ne vado, nessuno lo può evidentemente forzare ad andarsene, e lui rimane in giro. Adesso però si sente impaurito, si sente insicuro, torna in questura e si fa accompagnare al centro di identificazione e espulsione, per quanto, chi lo sa, per un giorno, per due, cosa succederà dopo? Uscirà di nuovo, dovrebbe andarsene perché ha un decreto di espulsione, ma non se ne va, nessuno può obbligarlo. È, come dire, la resa proprio, non dello Stato di diritto, ma della logica, mi verrebbe da dire, prima ancora che di qualcos'altro. 800 24 00 24, la difesa d'ufficio del vicepresidente del CSM Legnini ai magistrati che hanno valutato il caso. È evidente che se fossimo in presenza di un fatto accertato, una decisione di questo tipo produrrebbe, come ha prodotto, qualche sconcerto, ma bisogna tener conto di qual è la normativa vigente in materia di custodia cautelare, ed è in quell'ambito che il magistrato titolare dell'indagine si è mosso. I lavori socialmente utili, lo abbiamo accennato anche con, nell'intervista con Zaia, come funzionano per i migranti ma anche per gli italiani, perché lo prevede una legge italiana: ogni volta che qualcuno riceve un sussidio c'è questa possibilità su base volontaria. A San Casciano, provincia di Firenze, ci sono riusciti, credo a beneficio di tutti, perché laddove l'immigrazione è vissuta come un problema, per esempio a Roma o a Milano ci sono decine, centinaia di immigrati fuori di controllo, e qua diventa una risorsa. È con noi l'assessore alle politiche sull'immigrazione del Comune di San Casciano, Consuelo Cavallini. Buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Come avete fatto a rendere una, appunto, una risorsa che possa portare qualcosa di positivo anche per il territorio, partendo da quello che invece è per lo più un problema, quello dei migranti? Noi abbiamo adottato un nostro modello originale e nuovo. Siamo riusciti a coinvolgere il privato sociale, che è l'ente poi che gestisce il centro d'accoglienza, le associazioni di volontariato, e abbiamo dato un'impronta, una regia istituzionale. Nell'ambito di questo progetto, con il coinvolgimento appunto delle associazioni locali, gli ospiti delle nostre strutture hanno avuto occasione di fare del volontariato in tanti ambiti, dai servizi sociali all'accompagnamento, ai servizi ricreativi nei circoli. Quello che quindi poi aiutare a fare compagnia agli anziani, oppure agli anziani, fare il trasporto sociale, accompagnare i bambini a scuola, lavorare con piccole attività di giardinaggio per le polisportive, quindi ottenere in cambio l'uso del campo da calcio. Lei per però ha usato la parola volontariato, quindi esatto. Stiamo parlando di questo, cioè non c'è nessuno stipendio. Non c'è nessuno stipendio, noi abbiamo aggiunto, dopo questa esperienza con le associazioni di volontariato, abbiamo aggiunto invece l'esperienza all'interno dell'istituzione e abbiamo chiesto a loro se avevano voglia di fare anche attività per il comune, senza stipendio ma su base volontaria, però accompagnati dai nostri operai, quindi dai nostri operai specializzati, che so, nel verde pubblico oppure nella rimbiancatura. Questa è stata la moneta di scambio che abbiamo utilizzato e anche la forza dell'intervento che stiamo facendo, perché loro sviluppano delle competenze, imparano in parte un mestiere e ci regalano dei servizi di cui la comunità intera può beneficiare. Immagino. Comunque vi trovate a gestire una situazione che può anche uscire facilmente fuori controllo, e intanto io personalmente vi faccio complimenti, perché comunque riuscite a tenere insieme una situazione che, ripeto, in altri contesti, in altri territori non sempre tutto va a buon fine, ci sono problemi, invece questo è un sistema anche per garantire, perché no, maggiore sicurezza, però è un modello di integrazione, ma fa discutere, perché alcuni partiti di centrodestra, per esempio, dicono dopo la casa adesso date agli stranieri anche un lavoro retribuito, però, e agli italiani niente. Però lei l'ha chiarito chiaramente, non c'è nessuna forma di retribuzione. No, quindi non c'è nessuna forma di retribuzione. Questo argomento non c'è. No, non c'è, non rubiamo nessun lavoretto, perché sono attività che fanno abitualmente le squadre comunali, anzi per i nostri operai e i nostri tecnici è stato problematico inserire i migranti, perché all'inizio hanno perso un po' di tempo per insegnare un po' del mestiere, quindi non è andato in un primo momento a loro vantaggio, ma è stato un percorso condiviso, si sono poi create delle relazioni, si stanno rafforzando, alcuni ragazzi per esempio seguono i nostri operai anche quando non sono ufficialmente convocati. Questo per noi è un grandissimo successo, anche perché stare lì a non far nulla, a bighellonare, lo dico con una parola volutamente così arcaica, ma anche simpatica, però in certi casi anche peggio, cioè può essere attirati anche da attività illegali o da altre cose, è comunque peggio in questo modo. Quante persone sono coinvolte in queste attività? Sono ragazzi, spesso anche giovani? Sono ragazzi, noi abbiamo 45 ospiti, non tutti fanno attività di volontariato, ma una trentina devo dire di sì in varie situazioni. Oltretutto questo rafforza anche l'autostima personale, perché loro arrivano in un contesto che è nuovo e hanno bisogno di radicarsi, di trovare anche una nuova un nuovo senso al loro spazio e alla loro identità. Questo però, li aiuta. Però tutto questo che futuro può avere? Perché poi si torna comunque al punto, cioè finita l'emergenza dell'accoglienza, deciso chi di questi ha diritto all'asilo, a una protezione, chi invece no, cosa può succedere al termine di questo percorso? Perché comunque le opportunità di lavoro scarseggiano spesso e volentieri, e lei che futuro vede per questo tipo comunque di cittadini nuovi che arrivano nella sua città? Coloro che rimarranno, avere delle nuove competenze gli darà sicuramente delle nuove opportunità di lavoro. Da noi, noi abitiamo, il nostro comune è un comune del Chianti, quindi una zona agricola, molti di questi ragazzi sono già impegnati in attività agricole in aziende del territorio, perché la manodopera qua è molto richiesta, soprattutto una manodopera stagionale, e hanno già fatto esperienze di lavoro regolarmente retribuite. Questo che noi facciamo va a margine, dà un qualcosa in più e segue anche un po' le attitudini personali, perché i ragazzi non sono stati indirizzati casualmente all'attività che fanno, ma l'attività di volontariato che è stata scelta per loro è un'attività basata sulle loro attitudini personali, le inclinazioni, il loro progetto di vita che hanno qui, quindi segue quelli che sono, che è il loro orientamento, i loro interessi e le loro passioni. Beh, un'altra critica che viene fatta è che, io l'ho già detto, questa possibilità di fare volontariato o lavori socialmente utili, non retribuiti, lo prevede una legge italiana nel momento in cui ci sono persone che ricevono un aiuto dallo Stato, un sussidio, vale anche per i cassa integrati, anche se poi di questi progetti non ce ne sono moltissimi nelle città italiane. Qualcuno dice che si tratta di sfruttamento, di schiavismo addirittura. Lei che ne pensa? Cosa risponde? Io ritengo che sia anche una questione di dignità, è un modo nuovo per dare dignità a chi si trova in condizioni di svantaggio e non ha l'opportunità di avere un lavoro adeguatamente retribuito, solido, continuativo, quindi credo che sia una risorsa sia per noi che per chi può beneficiare di questo piccolo contributo. Arrivano dei messaggi al 3422386666, addirittura dicono: ma non è incostituzionale far lavorare senza retribuzione? Però lei ha usato la parola volontariato, non c'è retribuzione, però è anche fatto su base volontaria, non c'è un obbligo. Non è una vera e propria, non è un lavoro vero e proprio, è un'esperienza, chiamiamola di formazione on the job. Questi ragazzi fanno poche ore al giorno, non tutti i giorni della settimana ovviamente, e sono accompagnati dalle nostre squadre che gli insegnano il mestiere. È una cosa che loro gradiscono, fanno questa esperienza non tutti, ma chi desidera poi crearsi una prospettiva in quel particolare settore. Io non credo sia incostituzionale, ma credo sia dignitoso e una buona opportunità per spendere il loro tempo in maniera degna, produttiva e costruire anche delle relazioni, perché parlano l'italiano, conoscono i cittadini e questo li aiuta a crearsi dei legami più stabili. Va bene, grazie. Questa era la situazione a San Casciano, grazie all'assessore Consuelo Cavallini. Buona serata, grazie per essere stata con noi. Michele dalla provincia di Barletta, buonasera. Buonasera e complimenti per la trasmissione. È una bella favoletta, la racconterò stasera ai miei bambini prima che vadano a letto. diciamo che adesso andranno a spiazzare quello che è già il volontariato italiano, quindi tra un po' i volontari italiani si troveranno senza più volontariato. Perché dice così? Scusa, adesso la tesi perché è vero, sì. Perché ci sono, c'è tanti concorrenza italiani, cioè ci rubano anche il volontariato dopo la casa e il lavoro, ci rubano anche il volontariato. Guardi, però possiamo dire che il volontariato, io non so se sta dicendo sul serio, è serio o sta dicendo con ironia, è serio? Io sono opero nella sanità e molti volontari fanno i volontari per diversi anni aspettando poi che ci sia la spinta nel mondo del lavoro. Certo. E quindi io conosco quella mia realtà ed è quella. Poi adesso però possiamo, scusi, adesso uno potrà anche non essere d'accordo su come vengono impiegati i migranti a San Casciano, però dire ci tolgono il volontariato ce n'è per tutti, no? Cioè se fossimo 60 milioni di volontari non sarebbe male, non è che c'è che si sottrae qualcosa nel volontariato, non mi pare almeno, no Michele? È una provocazione perché queste persone giustamente devono essere qui per un periodo breve, e dovrebbero essere riconosciuti, mandati dove loro desiderano di andare, come è giusto che ci sia, e quindi è inutile preparare che cosa? Un letto che poi non sarà mai usato. E poi anche opterei per una maggiore attenzione nel ricevere queste persone, perché sono delle persone, non sono degli immigrati, perché molte volte vengono accolti, ammassati in appartamenti, non fatte visite sanitarie, dopo un po' di tempo, dopo un mese vanno No, ma i problemi ci sono, quello di San Casciano, nella gestione dell'immigrazione ci sono tantissimi problemi ed errori da parte di tante istituzioni, compreso il governo, eccetera, eccetera. Quello che mi sembrava interessante di San Casciano è che cosa devono fare in una piccola comunità, ospitano 40 migranti, fanno la loro parte, riescono a fargli fare qualche piccolo lavoretto, e io credo che questo sia un bene per tutti. Non riesco veramente a vederci niente di male, anzi è un modo per tirare a campare, mi verrebbe da dire. Dopodiché poi ogni opinione naturalmente è legittima. Michele, grazie, buona serata. Marco da Foggia, buonasera. Buonasera, io così all'inizio della trasmissione, visto che si chiama Si può fare, mi chiedevo se si può fare appunto quello che ha fatto Grillo, cioè invitare a votare senza usare l'intelligenza, senza usare minimamente un briciolo di cultura, ma semplicemente appiattendo tutto sulla rabbia. Risentiamolo per gli ascoltatori che non hanno sentito prima. Sentiamo. Io sono solo uno che urla, ha urlato la rabbia. Allora voi dovete, quando dovete votare, non basarvi sulla vostra intelligenza, sulla vostra cultura o informazione. Dovete votare in base alla vostra rabbia. Beh, certo, Grillo sa che votando con la rabbia votano come piace a lui i cittadini. Certo che non si dovrebbe poter fare un invito del genere, non ha senso. Ora, naturalmente questo pezzo di audio andrebbe contestualizzato, bisogna vedere cosa ha detto poco prima e poco dopo Grillo. Però, certo, questa frase presa così è eclatante, no? Cioè, diciamo, oltre alla questione di Battista, appunto, che cita Al Gore, che era il Partito Democratico, perché quella metafora lì faceva parte del documentario premiato di Al Gore sull'ambiente, così, quindi proprio non si inventa nulla e va a traino, ma una frase del genere, dove appunto loro sono quelli che invece vogliono vedere tutto, vogliono dire tutto, vogliono guardare tutto e hanno una visione alternativa di tutto, e poi alla fine dicono no, ma l'importante non è ragionare, l'importante è incazzarsi. Questo è pericoloso, mi sembra spaventosa come sì, io frase. Penso anch'io che sia una deriva, oltre quella non c'è niente, non c'è più niente, perché dopo che hai detto quella frase lì cosa devi dire? Appunto, se dovessero andare al governo, cioè veramente... Con la rabbia non vai molto lontano, certo, non amministri Roma con la rabbia o Torino la stanno amministrando, appunto, Roma vediamo però... Appunto, avere una massa di persone che ti vota arrabbiata di qualsiasi colore, che poi va appunto a prendere la maggioranza, fa paura, per cui invito tutti a drizzare molto bene le orecchie, perché non sono frasi normali dette, poi neanche con un briciolo di ironia, fra l'altro lui dovrebbe essere un comico, ma oltre a non far più ridere adesso spaventa, quindi sono veramente atterrito. Grazie Marco, buona serata. Borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore. Viaggio della disperazione per un giovane afghano partito da un campo profughi in Grecia, legato per 22 ore sotto un tir, salvato nei pressi di Cassino. Emergenza migranti al centro del vertice di Ventotene. Alfano annuncia da settembre avvia il piano di ricollocazione di una quota verso la Germania. Si era fatto esplodere a Kirkuk il fratello del baby kamikaze bloccato dalla polizia irachena, che accusa addestrati e spinti al martirio dal padre. La vicenda dell'indiano accusato del tentato rapimento di una bimba nel ragusano. Legnini a Sky TG24 dice: non è colpa dei PM, la legge va cambiata. Eco bonus per le ristrutturazioni anche per i condomini e non solo per le singole abitazioni, fra le novità della prossima legge di stabilità. Emergenza incendi a Roma, meno 30 i roghi in fiamme, oltre 50 ettari nella zona di Monte Mario, sgomberata una struttura per anziani. Eccoci qua, 19:37 minuti, con lo stacco che contraddistingue la ripresa del programma nell'edizione del weekend di Si può fare. Il sabato, domenica mattina, ritorneremo nel palinsesto autunnale, credo, come tutto tornerà al suo posto a partire dalla seconda settimana di settembre. Dai, ascoltatori, ascoltatori, amici e lettori grillini, non mi dite che fate sul serio. Mi spiace, ma penso che Grillo, scrivete al 349-238-6666, abbia ragione. Non sono un estremista, cordialmente, Luciano Rangon. Grillo uberale, schiappaura e scemo. A votare incazzato ci andavo anche prima di Grillo. Oppure, cosa pensa, che la gente non sia arrabbiata? Andate in giro, la gente vota di pancia. Amici elettori grillini, quello che ha detto Grillo può darsi che vada contestualizzato. Noi abbiamo estrapolato un pezzo, io non ho sentito tutto l'integrale del suo intervento, però se uno dice dovete votare di rabbia, lo risentiamo un attimo, risentiamolo, e non dovete utilizzare l'intelligenza, la testa. Oltre questo, cosa puoi fare? Non puoi fare più nulla dopo, no? Sentiamo. Io sono solo uno che urla, ha urlato la rabbia. Allora voi dovete, quando dovete votare, non basarvi sulla vostra intelligenza, sulla vostra cultura o informazione. Dovete votare in base alla vostra rabbia. Oh, questa frase qua l'ha detta, io questa frase non la incornicerei, non è una delle migliori di Grillo, non seguirei quello che dice Grillo, cercherei di capire, mi sto spaccando la testa, anche perché faccio questo lavoro, a cercare di capire se questa riforma costituzionale va bene, non va bene, per me, personalmente, capite? Io questa frase non la posso accettare, perché io personalmente sono mesi che cerco di capire se la riforma costituzionale mi piace o non mi piace, spacco il capello in quattro, ebbene sì, Grillo arriva e dice dovete votare con la rabbia, basta, tabula rasa, è tutto finito. Poi certo, mi dite, amministriamo Roma, Torino, certo, e meno male che il Movimento 5 Stelle, dico io, ha preso in mano Roma, una città che era oltre il fallimento, vediamo però se si andrà oltre la rabbia. 800 24 00 24. Marco da Parma, buonasera. Buonasera, mi sente? Forte e chiaro, Marco. Ecco, sì, io volevo proprio intervenire su questo, perché secondo me si sta stravolgendo la verità in quello che ho sentito adesso e anche dall'ascoltatore di prima. Sì. Perché su dall'inizio, sul fatto che Beppe Grillo abbia detto di votare con la rabbia, in realtà proprio oggi stesso seguivo su Facebook le parole di Di Battista in uno dei suoi interventi. Sì. E la prima cosa, la cosa che ripete sempre, o in ogni intervento, ogni esponente del Movimento 5 Stelle, è di informarsi, di analizzare, quindi di votare e di pensare prima di votare, sempre. Sì. E di mettere sotto, di criticare. Certo, anche certo, io ho detto, contraddice quel pezzo lì di Grillo, quella frase lì, solo quella lì, contraddice tutto quello che è stato fatto fino a... Ma lo sappiamo che nel Movimento 5 Stelle c'è una grossa componente di rabbia, a volte anche di qualunquismo, ma comunque di rabbia giusta da parte dei cittadini, che sono giustamente arrabbiati per determinate cose. Però... ma lo sappiamo però, se mi permette, lo sappiamo che Beppe Grillo fa queste uscite anche forse proprio per far parlare. Ma non vuol dire, cosa vuol dire? Lo sappiamo e quindi accettiamo che su un tema come il referendum costituzionale lui mi venga a dire votate di rabbia, cioè votate no, contro, non cercate di capire perché non c'è niente da capire. È questo che vogliamo? Ci riempiamo la bocca di assemblea costituente, di costituzione, di libertà di scelta dell'elettore, poi diciamo votiamo con rabbia, è questo? No, sono mesi e stanno andando in giro per l'Italia apposta gli esponenti del Movimento 5 Stelle per far capire che cosa c'è dentro la questa proposta per il voto che verrà, non si sa nemmeno quando. Quindi, secondo me, questo intervento vale un po', l'intervento di Beppe Grillo, intende, come quando lui prima delle elezioni europee si equilibrava, cioè si confrontava un po' come Hitler, che è stato tutto quanto stravolto nel suo intento, io l'ho detto, però, che la frase sicuramente va contestualizzata, ma insomma la radio, l'informazione vive anche di dichiarazioni e di frasi brevi, ogni politico poi è responsabile di quello che dice. Grazie Marco, buona serata. Giancarlo da Genova. Sì, buonasera. Buonasera. Allora, io volevo semplicemente dire una cosa che penso che il signore di prima abbia abbastanza espresso bene, nel senso che un discorso va contestualizzato. Inoltre Grillo non è il Movimento 5 Stelle. Grillo io lo conosco di persona, è una persona molto lunatica, perché ci ho riparato le pompe della piscina molti anni fa, è venuto 4 volte in piscina da me, in officina da me, e 4 volte si è comportato in modo diverso, nel senso è una persona molto lunatica, molto... A volte sì, però Grillo comico è l'uomo che ha avuto in mano le chiavi del Movimento 5 Stelle, sì, e che le ha ancora adesso. Lui è stato il promotore, siccome lui aveva una certa fama, è stato il promotore iniziale, ma adesso il vero Movimento 5 Stelle non è lui. Adesso sono Di Battista, sono Soria, sono Toninelli, Fico, la Taverna, c'è tanta gente preparata, perché poi dicono sono giovani non preparati. Il Movimento 5 Stelle c'è l'89% di laureati. Sì, no, ma assolutamente. Ha contribuito a ringiovanire il Parlamento, a portare titoli di studio, assolutamente. Sì, mentre che abbiamo cose... un Razzi che non c'è la terza media, mentre che per legge ci dovrebbe essere anche la scuola dell'obbligo. Comunque, lasciando perdere queste cose che sono marginali. No, non sono marginali, perché sono verissime. Io ho detto semplicemente che con quel tipo di frasi lì, che sono tipiche di Grillo, ma che stanno raggiungendo un parossismo in questo momento, Grillo contraddice quell'altra parte che c'è, e che è quella che diceva lei, del titolo di studio, di la gente preparata, competente, che discute e che cerca di capire. Questo ho detto, semplicemente. Esatto, ma Grillo purtroppo è fatto così, e lui all'inizio è stata una buona spinta per la fama che aveva e per quello che ci ha messo il cuore sul Movimento 5 Stelle, è riuscito a mandare avanti, come lui diceva, questa banda di ragazzi preparati e volenterosi, ed io li conosco 4-5 che erano operai, gente molto preparata che si sta sbattendo, tipo Alice Salvatore di Genova, che è una persona che ci sta 24 ore al giorno dietro per cercare di risolvere certi problemi e cercare di poter risolvere, anche perché è un muro di gomma, perché se non sei al governo tutti dicono cosa stanno facendo, se non sei al governo cosa puoi fare? Anche quello conta. Ma mi toglie una curiosità, lei ha conosciuto Grillo perché è andato ad aggiustargli la piscina? Capito? No, io lavoravo in un ufficio di 32 anni che faccio l'elettromeccanico e riparo elettrotensili. Grillo mi ha portato da fare la revisione alle due pompe della sua piscina, che aveva a Sant'Ilario. È grande la piscina? Sì, a Sant'Ilario, ma si parla comunque di 20 anni fa. Comunque, in qualsiasi caso, lui i soldi se li ha guadagnati. Tutti quelli che dicono... Io capisco uno che fa un comico, per esempio Suono. E se io riuscissi a sfondare il campo della musica e riuscissi a fare i soldi, chi mi può dire che ho rubato qualcosa a qualcuno? Ma no, infatti nessuno. A me dà fastidio la gente che si arricchisce quando non dà niente, quando non crea niente, ecco quello. Va bene, grazie Giancarlo, buona serata, grazie. Mario da Lecce. Mario, buonasera. Sì. Buonasera. Prego. Mi spiace, ma il mio intervento è molto fuori luogo rispetto a Grillo, perché avevo chiamato... No, ma per l'amore, parliamo anche d'altro, anche d'altro. No, relativamente, all'inizio del programma si parlava della cannabis, dell'introduzione, eccetera, eccetera. Allora, chi è stato ad Amsterdam sa benissimo che si può consumare, acquistare all'interno dei coffee shop, okay? E comunque non si può utilizzare, consumare fuori, in mezzo alla strada, ad esempio. All'interno dei coffee shop si può soltanto, non si può, anzi, acquistare, diciamo, alcol o superalcolici. Sì. Okay? In Italia cosa succede? Da alcuni anni sorge questo evento che avviene a Pisa a giugno, si chiama Canapisa. Okay? Sì. È una manifestazione che esorta, pubblicizza, incentiva, diciamo, alla legalizzazione. Quindi nulla di strano. Andiamo a sintesi, Mario, andiamo a sintesi, esatto, di questo intervento. Che cosa avviene? Si fuma in mezzo alla strada con la bottiglia di birra e il superalcolico accanto, con una scorta della polizia, che naturalmente non ha alcun intenzione di fare il controllo di quanti grammi, ma semplicemente mantenere il servizio pubblico d'ordine. La sintesi, Mario, qual è? La sintesi? La sintesi qual è? Cioè, facciamo le cose, ma facciamole bene. Impariamo dagli altri stati in cui c'è già una legislazione sana, intelligente, e proviamo a portarla anche da noi. Cioè, va bene, questo è quello che, Mario, grazie, buona serata. Questo è quello che si discuterà nel Parlamento a settembre, dove c'è, lo sapete, una proposta di legge bipartisan che riguarda parecchi parlamentari. Vedremo se avrà un futuro. Abbiamo recuperato, la redazione ha recuperato nel discorso di Beppe Grillo un altro passaggio nella quale Grillo specifica meglio il discorso del votate seguendo la rabbia. Sentiamolo. Ce l'avete, la dovete tirare fuori, è sana la rabbia, questo movimento è nato da una rabbia sana che ha fatto sì che la gente si muovesse, andasse a dei banchetti a firmare, non a picchiarsi con la polizia. Noi abbiamo fatto da cuscinetto, perché se no questo paese sarebbe nato il fascismo e il nazismo come nel nord Europa. Dovete ringraziare questi giovani. Sono 9 carrozze, 9 carrozze. Resta troppo fuori qua Grassalli. Fuori marciapiede restano almeno 5 carrozze. Ma sarà fatta la parte che praticamente poi passerà. Certo. Forse già da settembre. Ma arriva! Facciamo il video, dai! Come sa casa. Hanno fatto prima il Freccia Rossa e la Basilicata di Renzi e la Salerno Reggio Calabria, perché il Freccia Rossa, il treno super veloce, finalmente passa e si ferma in Basilicata. Anche questa è una rivoluzione piccola, piccolissima se volete, ma significativa a suo modo, perché la Basilicata, scollegata dal resto del mondo da sempre, adesso finalmente è collegata coi treni, che sono anche più ecologici, quindi meglio di così. E con noi l'assessore alle infrastrutture della Regione Basilicata, Nicola Benedetto. Benedetto, buonasera. Buonasera. Allora, grande felicità, immagino, dalle vostre parti. Avete, perché Matera, capitale dell'Europa e della cultura nel 2019, cioè vi siete, certo, mossi per tempo. Ma devo dire che sono delle prove tecniche di, sì, funzionamento. Le Ferrovie dello Stato sta testando le rotaie, la tenuta delle rotaie e soprattutto la tenuta della tensione elettrica. Però il test è andato bene, il test sembra che sia andato bene. Sembra che stia andando bene, faranno ancora altre prove, ma diciamo che sono ottimista, i lucani sono ottimista, che potrebbero avere questa opportunità di mobilità un po' più veloce. Cioè, era possibile immaginare Matera, capitale della cultura europea, 2019, arrivarci con un treno che magari da Roma ci impiega 4 ore? No, non era possibile, no? Assolutamente no. Diciamo che è stata un'opportunità che abbiamo colto, che i lucani hanno voluto, che con il mio arrivo al dipartimento ho colto l'opportunità e l'ho portata fortemente avanti. Cioè, o meglio, io penso, sì, prego, prego. Io penso che da qui a qualche settimana i test saranno conclusi e probabilmente poi sarà da discutere con Trenitalia un po' le questioni economiche, ma penso che... Cioè, dovete fare anche voi il contratto, quello con... Lei sa benissimo che l'alta velocità è a mercato, quindi il costo va coperto probabilmente con l'aiuto della Regione Puglia, perché parte da Taranto, e poi ci sarà coperto dall'utente. Penso che però voi avete i soldi del petrolio, no, assessore? Quindi noi abbiamo buona parte dei soldi del petrolio. Cioè, delle royalties, ormai, beati voi. Delle royalties, vabbè, non sono molti, però diciamo anche gli accordi del 98 del petrolio non sono stati poi così... diciamo adatti a quello che è stato il danno ambientale, però noi poi diciamo, siamo felici, anche perché l'ho detto anche prima, il treno è più ecologico, è più economico del traffico in automobile, quindi il fatto che siate arrivati prima voi, almeno speriamo, perché è una gara. A questo punto vedremo se i test e la linea effettiva si chiuderanno entro quest'anno, come dovrebbe chiudersi la Salerno-Reggio Calabria. Ci vuole più tempo, certo. Se nella geografia non lo so se riusciranno a finirlo, ormai è diventata... Ma Renzi ha detto entro dicembre è tutto ma finito. Renzi dice tante cose, ha anche detto che si dimette se dovesse vincere il no. Attacco dell'assessore a Renzi, perché effettivamente siamo abituati noi italiani a sentire i politici dire delle cose e poi fare esattamente il contrario. Io sono politico per caso, quindi sono anche critico su queste cose. Io della vita facevo altro. Poi cosa faceva? Io sono imprenditore, ho un'azienda di manufatturiera metallurgica alluminio. E quindi un'azienda di treni, pensavo, sarebbe stata una... Non è possibile, non faccio treni, anche se a Matera c'è una bellissima azienda, la Ferrosud, che produce carrozze per treni, ma in questo momento ha delle difficoltà come un po' tutte le aziende del sud. Senta, perché io ci ho scherzato su, non era possibile fare Matera, capitale della cultura del 2019, senza un treno veloce che collegasse, però adesso non vi è montata la testa, cioè voglio dire, uno degli elementi del fascino della Basilicata di Matera è anche questo isolamento, no? Questo fatto di essere voi speciali, questo lo mantenete. La Basilicata che è bella, Matera sì, è una parte della Basilicata, ma chi arriva pensando a Matera poi gira per la Basilicata, resta veramente affascinato. Abbiamo dei posti, dei paesi che sono una bellezza indicibile. La consiglio a tutti, quindi approfitto. Momento proloco dell'assessore alla mobilità della Basilicata. Ma esiste ancora quella paesaggio, quella campagna, quella civiltà contadina che raccontata da Carlo Levi nel famoso Cristo si è fermato a Eboli, eccetera, eccetera. Esattamente, da Levi e con la... Non la sentiamo più, non lo sentiamo più l'assessore, lo sentiamo male. No, un attimo. Riproviamo, sì? Prego. No, niente. Va bene? No, lo sentiamo andare e venire, assessore. Adesso va bene? Adesso va bene, si è messo in un punto dove c'è campo. Mi sono messo in un posto c'è campo. Non si muova. Dicevo che il paesaggio è lo stesso, al netto delle pale eoliche è stato impattato la Basilicata. Sì. Una regione molto ventosa, ci sono un po' di pale che comunque dobbiamo tenerci, ma ce le teniamo. Ci teniamo qualche trivella, ci teniamo anche qualche pale eolica. Anzi, sono quasi un vanto, no? Cioè, come dire, unite la tradizione di questo paesaggio, di questa montagna, di questa civiltà agraria antica, con anche la modernità, non solo del petrolio, ma anche delle pale eoliche. Anche se si va al Louvre a Parigi, c'è questo bellissimo museo e poi c'è una piramide in alluminio che non suona per niente. A meno per chi la guarda in un certo modo, quindi la modernità, le cose antiche si abbinano molto, molto spesso. Ecco, la Freccia Rossa al nostro paesaggio si abbina veramente bene, vederla sfrecciare sulle campagne, sulle colline, in questo momento gialle, perché diciamo dopo la raccolta del grano le corrine sono piuttosto gialle, questo rosso che sfila è veramente da guardare, veramente bello. Sarà un'altra attrazione rispetto alla funzionalità. Noi abbiamo chiuso gli occhi con lei immaginando questo paesaggio e speriamo che arrivate prima voi della Salerno Reggio Calabria e di Renzi. Grazie, buona serata. Grazie, buonasera. Allora, abbiamo ancora qualche minuto prima di chiudere. Marco da Bologna, buonasera. Marco, il mio intervento è in merito alle dichiarazioni di Beppe Grillo, dato che sono un elettore del Movimento 5 Stelle. Sì, sì, abbiamo già detto abbastanza, Marco. Sì, però mi perdoni, sì. Avete un atteggiamento sempre particolarmente critico. Non faccia il vittimista, Marco, perché non è così. Voi siete la radio di Confindustria e io sono il venditore. Aspetta, sì. Mi faccio finire. Sì, sì. Per 50 anni, questo paese ha 71 anni, giusto? A livello di 70 anni, sì, come per 50-60 anni è stato fatto di tutto. Tempio, sì. Se lei avesse avuto una fabbrica, un'azienda gestita da tot imprenditori, manager, vi discorrendo. Marco, avesse visto questo sfacelo, sì, ma io c'ero, non è che io ero da un'altra parte, io c'ero. Guarda, allora, lasciamo io adesso sto qua in questo orario, in questo programma, però se faccio anche un altro programma il sabato, che è lo stesso, il sabato e la domenica, che sai quante volte abbiamo raccontato le buone pratiche del Movimento 5, la raccolta differenziata di Parma, il fatto che è entrato nell'associazione dei comuni virtuosi, ma tutta la vita, cose bellissime. Però se parliamo delle dichiarazioni di Grillo sul referendum, quello è quello che ha detto e questo era il mio punto di vista. Non c'è un attacco, una prevenzione assolutamente contro il Movimento 5 Stelle, scordatelo Marco, non so se questa precisazione è servita. Ti faccio concludere, se no dici che poi ti ho censurato. Prego. No, non voglio, direi mai, anche perché se una discussione funziona anche perché insomma c'è questa cosa qua. Però era solo per dire, innanzitutto questa cosa che lei dice o che tu dici viene smentita nel momento in cui quando voi, anche Radio 24 fa tutti i vostri TG, cioè voi commentate tutto il giorno i tweet o le email, Facebook, le newsletter di Renzi. Non c'è un giornalista come lei che so che si siede davanti e gli dice, gli smentisce i numeri. O gli dice, sì, tu vieni a dirmi che c'è meno pressione fiscale quando basta fargli vedere che tu stai conteggiando dentro tutta la parte della mafia. Va bene, Marco, il contraddittorio ci vuole, quelle sono dichiarazioni, le prendiamo così, vengono riferite, non c'è un contraddittorio nei giornali radio, ci può essere all'interno delle trasmissioni. Comunque, grazie, buona serata. Alessandro da Firenze, buonasera. Sì, salve, buonasera. Io sono un piccolo imprenditore, 75 anni ormai, io ho avuto attività nel settore dell'albergatoria, ristorazione e anche edilizia. Mi ha meravigliato un attimino la conclusione di Zaia, che peraltro stimo perché è una persona pragmatica, quando dice tolgono il lavoro ai nostri ragazzi. Ecco, nei nostri ragazzi lavori del tipo di muratori, mandarli a pulire i graffiti di Firenze che ormai la imbrattano dappertutto e quant'altro, non si trova nessuno. Ma si dice, io vedo anch'io che è così, però si dice che non si trova nessuno perché questi lavori vengono pagati troppo poco. E quindi... No, non è vero, questi vengono pagati a paga sindacale, quindi quello che è la tariffa sindacale, ma lei non trova nessuno. Nel settore della ristorazione, levate i picchi di dell'alta stagione, eccetera, item, lei non abbiamo dovuto nei negozi tante volte dove c'è da fare orari lunghi, la domenica, sì. Perché nessuno voleva lavorare di domenica. La domanda di molti giovani: quanto guadagno, quando vado in ferie e così via. Quindi non a caso tutti questi lavori sono stati occupati da gente che veniva dall'estero, nel settore dell'edilizia, rumeni, albanesi e quant'altro, e idem nel settore della ristorazione, all'epoca egiziani e così via. Va bene, devo però chiudere. Alessandro, grazie per il tuo intervento, ma devo chiudere. È tutto anche per questa sera, ci ritroviamo domani 18:20 con Si può fare. Grazie, buona serata ad Alessio Maurizio, un ringraziamento Alessandro Longoni, Cristian Goldoni, Giovanni Melchiori in redazione, Roberta Frisani in regia. Ciao a tutti, buona serata, domani.